Il punto di Stefano Folli. Ora che ha avuto la fiducia, Enrico Letta dovrà essere consapevole che il suo è a tutti gli effetti un nuovo governo, anche se con la medesima struttura di prima, stessi ministri, ma una maggioranza diversa e soprattutto un partner difficile eppure essenziale come Renzi con la sua carica innovativa. Insomma, ci vuole il fatidico cambio di passo, che ancora non è evidente, almeno a giudicare dal discorso di ieri del Premier. Buono ma non troppo coinvolgente, salvo che nel duro confronto con i 5 Stelle. E qui è bene che le parole abbiano un significato chiaro. Il termine populismo, caro Aletta, non sempre rende l'idea. In qualche caso può avere, agli occhi dell'opinione pubblica, un significato positivo, ma la tentazione di saldarsi al movimento dei cosiddetti forconi che i grillini stanno coltivando, forse non Berlusconi che si è tirato fuori, va molto al di là del populismo. Vuol dire essere vicini all'eversione. Quando invece esiste una responsabilità democratica che comprende tutti, maggioranza e opposizione, in Parlamento e fuori.